Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Gianluca, oggi parliamo di ISE o ISEE, che dir si voglia, che è questo indicatore, insomma, del sistema economico della famiglia o della persona, no? Sì, indica praticamente la situazione economica familiare, quindi in buona sostanza dà l'idea della capacità economica della famiglia, e da questo indicatore si parte e poi per appunto avere delle agevolazioni in molti campi. Quello dipende anche ovviamente dai comuni, che determinano per varie cose, tipo le rette degli asili nido, ma anche per gli anziani, per fare un esempio, anche per i soggiorni degli anziani, sì, per gli affitti. Ecco, indicano qual è il reddito minimo, l'ISEE minimo, quindi sotto il quale è possibile ottenere delle agevolazioni, degli aiuti e quindi dei contributi, che ovviamente aiutano le famiglie ad andare avanti, usufruire, sì, dei servizi, cioè, di alcuni servizi molto importanti, come, ripeto, per esempio le rette dell'asilo nido. Ecco, per fare l'ISEE ci si rivolgeva ai CAF, ai patronati, no? Sì, formalmente il CAF svolge questo servizio, propone questo servizio gratuitamente. Questo lo sottolineo, poi anche ti spiego perché appunto riguarda poi la notizia che stiamo dando. E appunto svolgono questo lavoro, che non è un lavoro estremamente semplice, è un lavoro in cui bisogna studiare le carte, in cui bisogna anche fare delle fotocopie. Comunque è un lavoro che richiede una spesa per ogni singola pratica, che è una spesa insomma abbastanza importante, insomma, tra virgolette, nel senso che c'è il lavoro appunto di una persona, c'è la necessità appunto di raccogliere la documentazione, e appunto essendo un servizio gratuito, il governo, quindi lo Stato, l'INPS, riconosce per ogni pratica un contributo appunto ai diversi CAF. È un contributo abbastanza ridotto, perché era di 13,45 euro, e appunto abbiamo rischiato che i CAF sospendessero totalmente il servizio, perché è stato deciso appunto a livello nazionale di tagliare ulteriormente questo contributo e portarlo a 9,60 euro. Sono veramente stiamo parlando di cifre che non coprono minimamente la spesa sostenuta, ma non vanno a coprire proprio neanche la metà della spesa sostenuta dei CAF, i quali appunto avevano deciso, purtroppo loro malgrado, di sospendere il servizio dallo scorso 15 maggio. Quindi abbiamo rischiato veramente che venisse sospeso questo tipo di servizio molto importante. Per fortuna, in extremis, come spesso succede da noi, dopo le tante proteste da parte dei CAF, che hanno anche indetto il CAF Day, e devo dire anche di fronte alla solidarietà di tanti cittadini che ovviamente hanno un vantaggio da questo servizio gratuito, per fortuna è rientrata la protesta, perché c'è stato un accordo nel quale l'INPS e la Consulta Nazionale l'INPS ha stanziato altri milioni di euro appunto per poter dare un po' di respiro ai CAF, e i CAF hanno comunque accettato di lavorare proprio a pari, anzi un po' sotto rispetto ai costi sostenuti. Ecco, quindi è arrivato questo accordo molto importante, perché va a favorire i cittadini e soprattutto le fasce debole della cittadinanza. Ecco, volevo dire che ho notato purtroppo molto spesso ci sono anche dei pregiudizi magari da parte di qualcuno, quindi ho notato che quando è stata annunciata la sospensione del servizio dei CAF, insomma, c'è stato qualcuno che ha detto che sosteneva che insomma i CAF con gli ISEE prendevano molti soldi, che insomma facevano pagare molti soldi, invece in realtà nessun CAF ha fatto mai pagare gli ISEE ai cittadini. Quindi insomma, ecco, cerchiamo di rimanere nella realtà, e quindi è un servizio molto importante, e per fortuna questo servizio viene mantenuto. Certo, a me è capitato di utilizzarlo e devo dire che quella volta lì è andata via una mezz'oretta o quasi, e più sono state fatte anche un bel po' di fotocopie, quindi insomma i costi anche a livello di gestione del personale, che è una persona che ti segue e deve fare tutto quanto, bisogna comunque pagarla, e quindi il patronato, il CAF ha delle spese e ovviamente vanno sostenute e aiutate. Sì, in questo caso il servizio per appunto la compilazione dell'ISEE riguarda appunto le fasce deboli, quindi è giusto che il servizio sia gratuito, però è giusto che a pagarlo appunto sia l'INPS e che non siano i CAF che appunto da soli debbano sostenere tutta la spesa. Questo sarebbe impossibile. Il taglio previsto del 30% avrebbe completamente messo fuori gioco i CAF e avrebbe chiaramente spiazzato tutte le persone che poi hanno bisogno dell'ISEE. Perché Francesco, l'ISEE appunto è varia, cioè può essere richiesto per tantissimi servizi. Vediamo come è davvero molto utilizzato. I comuni lo richiedono, per esempio abbiamo fatto prima l'esempio dei contributi alle rette dell'asilo nido, questa è una delle cose più importanti, ma anche per quanto riguarda le agevolazioni per gli affitti, insomma ce ne sono tantissime voci per le quali poi l'ISEE diventa necessario per avere dei vantaggi e per dare dei vantaggi alle fasce più deboli. Tra le fasce più deboli voglio indicare soprattutto le persone anziane, perché per loro sono previsti diversi servizi gratuiti, diverse agevolazioni appunto dopo la presentazione dell'ISEE, e chiaramente questo, se fosse stato sospeso il servizio, abbiamo calcolato che ci sarebbe stato un problema per almeno 40.000 pensionati veneti ogni anno, i quali sono quelli che appunto vanno a farsi fare l'ISEE dai vari CAF per poi accedere veramente a tantissimi tipi di servizio. Certo. Quindi siamo soddisfatti del fatto che sia stato sospeso, che sia stato trovato un accordo. Però Francesco, non siamo soddisfatti quando i tagli vanno nella direzione di andare a colpire le fasce più deboli, perché in questo caso si andava veramente a colpire una fascia più debole, perché i CAF avrebbero potuto cominciare a chiedere una parte di soldi ovviamente al cittadino che andava a chiedere di fare l'ISEE, non potendo sostenere il servizio. Quindi quello che andiamo a dire noi è, per le difficoltà economiche che viviamo, che vive quotidianamente anche il nostro Stato, noi riteniamo che comunque se si vuole procedere con dei tagli, mai questi tagli devono andare nella direzione di sfavorire le classi che sono già sfavorite perché sono disagiate, perché hanno pochi soldi e perché comunque fanno fatica ad arrivare al fine mese. Ecco, quindi è stata una cosa antipatica, ma non è la prima volta ovviamente che vengono tagliati i fondi per i CAF, che ricordiamo aiutano i cittadini. Quindi insomma riteniamo veramente antipatico quando si procede in questa direzione. Certo, va bene, dai, allora per adesso è andata bene, chissà che poi le cose continuino in questo senso, che non ci siano magari l'anno prossimo, fra un paio d'anni, di nuovo prospettive del genere. Ringrazio l'Adico, che ricordo trovate nel sito www.associazionedifesaconsumatori.it. con te Gianluca ci risentiamo lunedì. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.